Anna, Endrizzi, non glielo dico, sono troppi, sono 92. La mia storia da quando ero piccola, avevamo anche l'asilo qui attorno, dove c'era la biblioteca, c'era l'asilo con un bel prato, perché l'asilo era fatto di legna, non c'era una bella stanza. E giocavamo lì noi, venivamo la mattina, poi andavamo a casa a pranzo, poi ritornavamo. E si giocava, si faceva come faranno anche questi ragazzini adesso. Non avevamo mica tanti giochi noi da fare, eh? Più che correre, la palla era già una cosa. E vivevamo lì, però eravamo quasi tutti quelli della mia età, anche forse più vecchi di me, e giocavamo fuori tanto quando il tempo ce lo permetteva e così. Quando c'era la neve facevamo le palle di neve e mi piaceva stare. E facevamo magari dove passa il torrente adesso, era un fosso, proprio un rio brutto era, e non era come adesso, no? E andavamo giù e su e giù, e anche noi andavamo lì allora. E dopo bisticevamo per chi ha fatto prima e per chi ha fatto dopo, si bisticciava come fate anche voi. Il torrente era brutto allora, eh. Adesso è un bel torrente, ma a quei tempi era proprio un rio, ecco. Però giocavamo, ci bagnavamo, facevamo come fate voi più o meno, ma voi avete a disposizione più cose di noi. Noi non avevamo niente, eravamo poveretti, bisticevamo per una cosa, per una cosa. Che c'erano le piante di castagno là per una castagna tirata, quell'altra. Giocavamo tanto perché lì davanti all'ufficio postale c'era una bella fontana a pioggia, era bellissima, era. Tornavamo a casa che eravamo ben bagnati, tornavamo a casa, era bella. E quando è morto Mussolini, Arnaldo Mussolini, non Benito, hanno rotto questa bella fontana e hanno messo quella pianta che c'è lì, cos'è? Un larice, che cos'è? Un abete. Ma lì avevamo un insegnante che dovevamo andare, mamma mia, se non eravamo bravi, eh? Ci mettevano in castigo. Adesso andate in castigo voi. Io andavo. Noi ci mettevano in castigo, eh? Ci lasciavano fuori, magari sulle scale, sul corridoio. E poi prendevamo, andavamo a casa a lamentarci dalla mamma, te lo sei meritato, ecco. Non andavano le mamme a mare a quei tempi, no? Però giocavamo sempre, maschi e femmine, sempre, andavamo abbastanza d'accordo, ecco. Una pala eravamo in 30-40, immaginarsi. Eravamo sotto stretto controllo dai maestri, eh. Quali giochi facevate? O giocavamo, mamma mia, a rincorrerci, non facevamo mica tanto. I ragazzi magari andavano su per le piante, poi ci gettavano giù i rami, facevano i dispetti come fanno anche adesso. Però sempre sotto controllo degli insegnanti, perché avevamo un insegnante, un maestro, se non la maestra passava ancora, ma il maestro della quarta e della quinta, se non facevamo cose, la pagella. Ma solo la pagella o erano anche quelli con la bacchetta? Sì, Poi io abitavo proprio lì vicino, non avevo neanche strada da fare. Siate puntuali, per le 14 dovete essere qui. No, loro dicevano sempre le 2. Mangiavamo, poi tornavamo lì e puliti, in ordine, guai bisticciare. Fino lì potete arrivare, più in là non dovete andare, dovevamo ubbidire, pronta ubbidienza. Era così la vita, la nostra vita. Poi guai puntualissimi per la scuola, andare e venire. Poi quando andavamo a fare ginnastica, ci portavano all'oca allora a fare ginnastica. Aveva sempre una bella bacchettona al maestro. sì. Andavamo all'oca perché c'è tuttora, no, il campo sportivo all'oca, che ginnastica ce ne facevano fare tanta, tanta. E facevamo anche delle belle gite, sì, andavamo tanto verso Tiarno. E poi c'era un signore che veniva sempre a farci la polenta, o farne due o tre. gialla, gialla. Perché la faceva proprio fra due pietre, aveva un pentolone, un paiolo grande, e le faceva lì la polenta. Ma fare la polenta per cinque classi, no, non c'era, sì, mica tante altre cose a quei tempi. Poi allora c'era anche il parroco che veniva due volte alla settimana a farci lezioni. E lui aveva sempre in mano, c'era un bel bastoncino, quello che usavano per tirare le tende, e te lo dava sulle mani se non facevi bene, piano piano, non forte, te lo dava lì. Non c'era mica da andare a casa a dire mamma, il parroco mi ha dato qui, non bisognava dirglielo, perché sai cosa mi diceva? Te lo sei meritato. Ecco, quel che mi ricordo, che non c'era il viale qui, c'era solo una stradina dalla posta, da dove erano le scuole, dall'ufficio postale, a venire fino qui al viale, c'era una strada che passava un carro. Da qui andare fuori era privato, era dei Tomasoni, del panificio, e c'era la stradina che andava da loro, si andava a comprare il pane anche a loro, perché erano, sì, ma guai, perché avevano tanta frutta Tomasoni allora. E se prendevamo una pera o una mela, c'era il nonno di quelli che ci sono adesso, il bisnonno, urlava, si arrabbiava, lasciate stare, andate via! Erano anni duretti, però ci si divertiva.